24 mattino. Rieccoci, è giunto il momento dei cani e dei gatti e io non vedo Oscar Giannino al suo posto. Eccolo, con una camicia rossa, garibaldino, risorgimentale, epico. Oscar, allora, ricordate, stasera per chi ama il calcio e non tutto solo... Tutto spento qui, non funziona nulla. No, no, ecco, ti vediamo, due grandi sfide, quella fra Dybala e Messi, quella fra la Roma e l'Atletico Madrid, sfida incrociata. Ma no, racconto quello che accade. Senti, ti regalo una citazione di Asli Erdogan, giornalista perseguitata dal regime turco. Non confondiamo col sultano Erdogan. No, casomai il contrario. Se non conosci il potere della parola, non conosci la gloria dell'umanità. Bene, ho fatto sto regalo, ma non sei in grado di apprezzarlo fino in fondo. Io lo sai che non sono alla tua altezza, io striscio nelle mie vicende di contribuente, lo dico sorridendo, ma è vero, io sono un miserabile. Tanto è vero che io ho invece due altre notiziette di queste, sai, noi miserabili che stiamo lì a fare il conto, che non riusciamo ad arrivare a capire come c'è ogni volta. Allora, il Messaggero, cari contribuenti, godete Topolini, vi informa oggi che il governo cercherà di accontentare anche la buonuscita dei dipendenti pubblici delle Poste, i quali, malgrado una sentenza della Corte Costituzionale dichiari illegittima la richiesta dei loro sindacati, siccome siamo sotto le urne, avanzano 907 milioni di euro e lo Stato dovrebbe metterli, perché il governo deve accontentarli sotto le urne. 907 milioni di euro trovano? Per la buonuscita dei dipendenti delle Poste, malgrado Oscar, la Corte dove Costituzionale. Li trovano? Ma fanno deficit, come trovano i soldi per le pensioni, per tutto, figuriamoci. Detto un po' di web tax contro Amazon ed che vuoi, tu sei felice di queste cose qua. Dopodiché, seconda notiziola, visto che siamo noi contribuenti portatori genetici dell'evasione propensi, lo Stato ci fa sempre la predica, invece lo Stato marcio del fisco è all'interno del Ministero, visto che si svendevano i progetti fiscali fin dall'inizio della segreteria, e c'è un'indagine perché una consigliera di più ministri, compreso quello in carica, svendeva i progetti fiscali. Lo Stato che ci fa le prediche si svendeva dall'interno. 220.000 euro non è male, ti sistemi un pochetto, no, ma neanche tanto. Ma voglio dire la cifra, vedremo. Però quello che mi interessa ma ribadire. È un caso incredibile, io ho detto. Ma è un caso incredibile, ma lo Stato è incredibile. Ma è lo Stato che è incredibile, su. Ma qui non è lo Stato, Oscar. Ma non diciamo la corruzione degli uomini. Ah, non è lo Stato. Perché lo Stato è separato da loro, secondo te? Ma chi sei, Hegeliano? Credi nello Stato etico, nello spirito della storia? Ma chi sei, Gentile? Scusa, il fascismo è questo, lo Stato etico. Ma non se sto uno si fa corrompere, cosa c'entra lo Stato? Lo Stato sono si semplicemente corruzione. James Buchanan, lo Stato è la minoranza di chi lo amministra pro tempore, non è un'impersonalità etica. Su, spogliati di questo residuo hegeliano che è il fondamento dell'autoritarismo. Sono terribilmente hegeliano stamattina. Ah, io no. Però intanto però, il segreto è una vicenda senza precedenti. Svenduto. E ti credo che sapevano come fare, no? Perché avevano in anteprima, addirittura c'era anche un po' un'azione di lobbying, nel senso che quando bisognava fare un provvedimento i clienti, capito, della società erano agevolati. E noi contribuenti come fessi che crediamo alla grande volontà generale. Della sera, la dicendo. Volontà generale. Su, statalisti, accettatela questa idea. La vostra idea generale di imporre l'etica è fondata sulla corruzione degli amministratori pro tempore. Vuoi che ti faccia la lista di quanti sono i giudici tributari attualmente indagati o condannati perché svendevano le sentenze? E anche non hegeliani che vogliono chiamare 800 24 00 24, i vostri messaggi al 349 238 6666. Il referendum di oggi è: Oscar è lucido e sobrio, appassionato, cede all'invettiva oppure ubriaco? Non ma, lo so. Ma questo sarebbe il referendum? Vabbè, allora siamo morti, figuriamoci. Va bene, allora, questi sono i metodi serie dell'autoritarismo. Come sempre, sì, chi sì obietta finisce al reparto psichiatrico. Questo è così. Solgenizi, il bello Giannino. È che no, questo mai. E del resto, Oscar, io non oserei Solgenizi mai, se non per ironia, paragonarti. Scrivi i libri contro ricostruendo le storie, cuore in mano, di coloro che hanno creduto agli autoritarismi neri e rossi. Quindi su questo, guardate che stiamo scherzando, cari ascoltatori. Non vorrei che vi confondeste. Telese non ha niente dell'autoritario. C'ha dei riflessi male culturali quando era giovane, Hegeliani, un po' Hegeliani, tutto lì, tutto lì. Allora, dicevo 8-23 minuti, Oscar, il commento tuo sulla vicenda delle pensioni. Il commento mio sulla vicenda delle pensioni è che... Hai vinto, cioè i cordoni sono stati tenuti chiusi, no? Ah, cioè è chiaro che per te 300 milioni solo per quest'anno, gli effetti delle decisioni saranno miliardi negli anni successivi. Questo vorrei che fosse chiaro a chi ci ascolta. Come sempre, non cadete in trappola, sono miliardi. Però detto tutto questo, no, non sono per niente contento, perché come è evidente in questa vicenda, e io non mi stupisco, la CGIL fa il suo mestiere è più politica che sindacato, e quindi il suo mestiere era approfittare della... del problema che c'è tra PD e che è uscito a sinistra. Detto tutto questo, a me la progressiva erosione, colpo dopo colpo, sistematico, con i media che applaudono perché hanno i lettori vecchi e quindi devono parlare a loro dicendo bisogna che vi accontentiamo per pensionandovi, di questa barriera che esiste solo perché col sistema ripartizione c'è un rapporto diretto tra i contribuenti attuali, chi versa i contributi e la pensione da pagare, no, non mi piace, perché botta dopo botta farà venire meno una diga. Allora io lancio una controproposta, cara Camusso, cara CGIL, passiamo al sistema direttamente a capitalizzazione. Allora ognuno davvero ha solo il suo monte contributi, spezziamo la catena della solidarietà del sistema a ripartizione, per cui devo pagare i prepensionati e quelli delle pensioni retributive con il mio misero monte diversamente. Ma non si può fare. Ah, perché non si può fare? Esistono i sistemi a capitalizzazione. E cosa vuoi? La botte come sempre, la botte piena, la moglie ubriaca. In essere? Cari miei, ognuno si verrà ridimensionato con quello che ha pagato. Ecco, tutti dicono di aver pagato il giusto. Di tagliare le pensioni in essere. No, caro mio, no, io sto proponendo il fatto che così ciascuno si fa il proprio conto nella vita, lavora per tipo di lavoro quanto vuole e avrà solo ciò che gli spetta per contributi versati. E non mi si può dire no anche a questo, perché altrimenti se esiste il sistema della solidarietà col meccanismo a ripartizione, allora io vorrei che i diritti di quelli che non hanno tutto quello che pagano ogni mese agli altri vengano più presi in considerazione. Bene, agli atti, e il referendum è in corso e tutti scrivono è sobrio. Oscar è sobrio. Ancora per oggi, cari ascoltatori, è evitato per me il reparto psichiatrico, ma non perdete la speranza, ci finirò, sto scherzando. Oscar, bisogna dire anche che le imprese private sono delle gran corruttrici, non solo lo Stato. Ti arriva questo messaggio. Le imprese private, perdonate, tra la segreteria di un ministro che si fa corrompere e la grande consulting internazionale che tenta di recepire notizie, scusate, vi faccio notare che c'è una graduatoria di gravità. È chiaro, la fonte etica del diritto tributario, quella che vi fa le prediche, si svende dall'interno. E rispetto a questo, che ci siano privati, multinazionali, che tentino di sapere, certamente è illecito, è legittimo, lo condanno, ma l'ordine di gravità è inferiore rispetto a quello dello Stato che si fa violare nel sancta sanctorum dei dibattiti e dei progetti in corso di esame e che si fa influenzare da gente che lo fa per soldi, per svendere i segreti di Stato. Perdonate, c'è una graduatoria della gravità, tutto qui, mica mi sto dicendo che gli altri sono degli angioletti e i satanassi sono quelli pubblici, però il pubblico è pieno di satanassi. Oscar è il numero uno, rassegnati Telese. Vabbè. Lui dovrebbe essere il ministro, non quei tonti domani. Incompetenti che ci marzolano. Grazie al cielo no. Io vorrei invece ministro Telese. Sì, no, tu che portafoglio prenderesti? Ma non aspiro. Tu all'economia cambieresti il corso della storia italiana. Non credo. Mi carcererebbero in 5 secondi. Il primo discorso all'Accademia della Guardia di Finanza entrerebbero i carabinieri a carcerarmi. Allora, 800 24 00 24, fra poco i nostri ospiti, 349-238-6666 per i vostri messaggi di navigazione. Andiamo in pubblicità e torniamo nel vivo dei cani e gatti. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino 8:31 minuti 13 secondi. Oscar, sei rimasto colpito dall'invettiva di Dacia Maraini contro le barbe, che secondo lei sono ispirate ai predicatori integralisti? Ma ha problemi lei nella percezione evidentemente della libertà. Ma no, ma scherziamo, ha detto oltretutto che invecchiano, imbruttiscono. Ma comunque io la sua opinione è rispettabile come quella di chiunque altro, basta che non si prenda come no, ma curioso, curioso, perché sì, allora Marx, perché... Gesù Cristo, no, Freud, vabbè, no, dico, c'è una lunga lista di ben prima dei predicatori, di barbuti eccellenti nella storia dell'umanità. Ma sai, allora, il problema è che ci sono popoli e civiltà, come sai, che impongono la barba. Lei al contrario mi sembra imporre il taglio, un po' come Berlusconi. La cioè Maraini la pensa come Berlusconi. Sai che Berlusconi su barbe e baffi è come la Maraini. A Bartoletti di tagliarsi i baffi, no? A tutti chiede sempre. Silvano da Verona con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ti senti a casa tua fra i cani e i gatti? Ma allora, mi sento a casa mia, devo dire che apprezzo molto la trasmissione, apprezzo molto anche Giannino, però su sto tema qua delle pensioni purtroppo la vedo in maniera diversa. Lo so, ma non c'è problema. Siamo però, qua. La riflessione è questa qua che faccio. Allora, io ho 58 anni, sono stato una decina d'anni dipendente, sono stato titolare di azienda per altri 10-15 anni e oggi gestisco un centinaio di persone in un'altra azienda. Ho 58 anni e non la vedo, io già adesso mi rendo conto che ho una grande esperienza, ma non ho più l'energia e la carica che avevo prima, a 40, a 35, per cui tenere tutti i miei dipendenti fino a 67 anni, la vedo dura. Ma parli di te o parli dei tuoi dipendenti? Ma parlo anche di me partendo dalla mia esperienza personale, perché anch'io stesso mi vedrò a 64-65 che darò meno di quello che sto dando adesso, perché adesso do meno di quello che davo a 45, e questo è un lato. L'altro lato è che io ho tre nipoti, sono tutti in Germania. Allora, io non capisco il problema delle pensioni, ma bisogna trovare un'altra soluzione. Non può essere quella di portare sempre più avanti il limite delle pensioni, di lasciare sempre più fuori i giovani, ma anche perché poi si sa benissimo che magari si vanno a prendere soldi pubblici per il prepensionamento. Io vengo dall'Olivetti i primi 12 anni e ho vissuto tutta l'era dei prepensionamenti, 40, 50, alla quale vuole tornare però. No, io non voglio tornare. Vuole tornare. No, scusi. Trovare una soluzione, ma che permetta. Qual è la soluzione? Non lo so, ma non mi basta mai l'idea non ci sono i soldi perché devo fare così. Non mi è mai bastata questa soluzione. Non ci sono i soldi per le pensioni, non mi basta. Non è una soluzione. È una scelta di comodo. No. Non faccio altri interventi. Allora, no, guardi, però, no, scusa, io capisco obiettare, però non può dirmi paghiamo il 15,3% del PIL, cioè 4 punti in più degli altri, solo per pensioni, e lei mi dice non è un argomento. No, ma è un argomento. Ma dobbiamo trovare un'altra soluzione, perché ogni impresa preferisce avere delle persone da 25, 30, 35, 40 anni. Oh, questo vede. Senior esperti. Ma io come lo so, tanto è vero che come vede Confindustria sta zitta su questa questione di prepensionamento, questo, no? È il tema vero. Allora, come facciamo? Benissimo, però questo è un segno di arretratezza dell'impresa, che invece, come capita in altri paesi, abbiamo detto, cioè, più volte. Cioè dici che c'è un pregiudizio contro gli anziani nelle imprese? Certo, no? Perché riorganizzare, come abbiamo detto più volte, riorganizzare la cultura del lavoro da parte delle imprese, utilizzando in maniera diversificata nel tempo, man mano che progredisce l'età dei propri dipendenti, il loro utilizzo nel circuito dell'impresa, della filiera, è una cosa che alle imprese dà fastidio, perché come sempre significa aggiornarsi, cambiare gli schemi organizzativi, cambiare il sistema di gestione delle risorse umane. Però gli altri paesi, quelli nord europei, dimostrano che si può fare, perché hanno iniziato a farlo da decenni, perché hanno più rispetto degli anziani che lavorano, sottolineando però che c'è bisogno che lavorino, senza dire ti prepensioniamo e poi vai in panchina a goderti che cosa? Non abbiamo le risorse da dargli, da fargli godere. Ecco, abbiamo capito dopo anni che sono andati in Portogallo, alle Canarie, in Tunisia, dipendenti pubblici, pensionati, perché comunque non è che gli stiamo regalando chissà che cosa, per essere chiari. Ecco, allora, tenere insieme queste due cose obbliga tutti a cambiare la mentalità organizzativa. Il sindacato capisce invece solo una cosa: sfondare e prepensionare, sfondare e prepensionare, come ha detto la Camus. Ma il problema è il deficit, ma ci sarà tra 15 anni, e sottinteso è chi se ne frega, tra 15 anni ci sarà chi lo risolve, tanto pagherà chi è giovane adesso tra 15 anni. Ecco, io dico che questo è sbagliato. Penso che i lavori usuranti che sono stati definiti sono ancora ristretti rispetto alla realtà. Ogni dipendente è usurante, è la verità. Però invoco un grande arbitro fra noi, Sergio Rizzo, uomo che sulle pensioni ha scritto tomi, studi e volumi. Buongiorno. Buongiorno. Giornalista di Repubblica che oggi si rifà il look. Ti piace, Oscar, ma la nuova Repubblica? No, non se lo fa Sergio Rizzo, non ha bisogno di farsi. La Repubblica si rifà il look, non Sergio Rizzo. Sergio Rizzo è bellissimo. Ti piace la nuova Repubblica, Oscar? La nuova Repubblica, io col spero, carattere Eugenio. Ti dirò, il carattere Eugenio, ecco, sorrido, non credo che si debba commentare, va bene, ognuno ha diritto alle sue grandezze napoleoniche. Ma detto tutto questo, io mi auguro che il nitore, lo spazio, i bianchi recuperati, il carattere, sembra un po' il Wall Street Journal come era tanti anni fa, perché poi si è riaddensato, ecco, superi la pressione che verrà dalla redazione, la grande armata, che dirà ma così non c'è spazio per tutti noi, perché recuperare bianchi ed equilibri tipograficamente dà in realtà misura e ordine ai pensieri. Io so per esperienza, avendo lavorato anche alla confezione tecnica dei giornali, che poi si viene travolti da tutti quelli che dicono ma no dai, su, bisogna scrivere più cose. Oggi è bello davvero. Allora Sergio, spendi due battute per il nuovo Repubblica e poi entriamo nel vivo delle pensioni. Ma intanto bisogna dire che non è soltanto un look che è cambiato, eh? Attenzione, è un giornale che è cambiato. Il giornale che è cambiato perché siamo consapevoli che il mondo cambia, che l'informazione cambia. Sappiamo tutti che stiamo andando verso frontiere in gran parte inesplorate, ma insomma cerchiamo di dare ai lettori quello che i lettori vogliono sempre di più, no? Che è più chiarezza, che è più profondità soprattutto, perché purtroppo i giornali. Io ho la sensazione talvolta quando sfoglio i giornali che siano tutti uguali, no? Che siano tutti uguali, che siano tutti ricalcando ormai da troppi anni un cliché che è quello di riempire i bianchi, per dirla con Oscar. Esattamente. Ecco. Per esempio, noi abbiamo introdotto una innovazione che adesso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane diventerà più chiara, no? Oggi c'è stato semplicemente un assaggio. Abbiamo introdotto una pagina, che è la quarta pagina, dove non ci sarà lo spazio per le interviste che seguono il primo piano o che, diciamo, pedissequamente c'è la famosa pagina che deve essere riempita perché sta dopo la 2 e la 3, tanto per capirci dai giornali tradizionali. No, è una pagina identitaria dove noi metteremo dei contenuti. Metteremo delle inchieste, metteremo soprattutto dei temi che saranno oggetto di campagna. E penso, oggi per esempio si parla dei precari, su tre, esatto. Così vive sì, la ricerca. Perché è una cosa, diciamo, è una cosa che entra nella carne viva poi dei giovani. Stavamo parlando delle pensioni, no? Poco fa. E questo, senti, io te lo dico perché secondo me, malgrado Oscar con molta passione difenda le sue idee rigoriste, io parto dalle vite. Per me, in alcuni casi, con alcuni lavori, 40 anni di lavoro. 40 anni di lavoro sono tanti. Quindi sì, bisogna capire questo. Che per alcuni mestieri, per alcuni lavori, 40 anni sono insostenibili. E sono questo a rischio per gli altri. Se uno fa l'autista, se uno guida una corriera, se uno guida un treno, non si può rischiare così tanto. Questo prego. È vero, però è anche vero, Luca, che noi ci trasciniamo dietro un fardello che viene dalle politiche degli anni passati, cioè il 15,3% di spesa pensionistica sul PIL è la conseguenza, diciamo, delle politiche clientelari che sono state seguite nel corso dei decenni passati, perché le pensioni sono sempre state utilizzate, ahimè, come una leva di questo tipo qua. Quindi noi abbiamo distribuito pensioni bassissime, tantissime pensioni bassissime ingiustificate, tantissime. Se tu vedi com'è la curva della spesa pensionistica in Italia, la raffronti con quella della Germania, capisci esattamente quella differenza tra un paese che fa delle pensioni un ammortizzatore sociale e un paese che invece le utilizza per quello che devono essere. Cioè, ma l'ho detto già tante volte con Oscar, allora togliamo alcuni diritti acquisiti iniquamente difendiamo certo. I diritti equi. Perdonate, limiamo la pensione a chi è in pensione dopo 16 anni di lavoro. Perdonate, il giorno che vedrò la Camusso appoggiare, io sono tranquillo, fin dal primo momento, la campagna porte aperte, numeri alla mano, sui 13 fondi speciali che sono la sintesi dei regali all'interno del sistema ex retributivo a categorie che strapparono dalla politica montanti più elevati, minor numero di versamenti annuali e più bassa età pensionabile rispetto agli altri del sistema retributivo. Sappiamo chi sono, quanto prendono in più, eccetera eccetera. Il giorno che vedrò la Camusso sfilare in piazza, oltre che per i suoi obiettivi, dicendo anche facciamo quel che ci dice Boeri e su cui 13 fondi interveniamo, come dice Sergio Rizzo, io lo traduco in cose concrete. Beh, riguardano i post telegrafonici, riguardano i dirigenti, riguardano i dirigenti pubblici, riguardano, c'è anche il fondo clero, anche mi dispiace dirlo, esatto, i commercianti, quindi sono 13, ne sappiamo tutti, ci sono tutti i numeri sul portale dell'INPS. Il giorno che vedo la Camusso dire anche quello a fianco di quello che dice, mi sembra già più accettabile, sono sincero. Antonio da Roma e poi Sergio di nuovo. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salto i complimenti. E allora io vorrei avere conoscenza di una tabella che copra gli ultimi 10-20 anni, in cui semplicemente ci sia nella colonna 1 il disavanzo primario, nella colonna 2 qual è stata la spesa corrente, nella colonna 3 quali sono stati, quanti sono stati gli investimenti, e magari una, un'ulteriore colonna in cui dico quanto ho pagato di debiti, voglio dire BOT, CCT, eccetera. Tutto qui, poi magari io a mia volta a fianco ci metterò il nome di chi governava in quegli anni, ma questo è un dettaglio. Lei certo. Che ne dice? Mi sembra sovversivo, anche perché così colgo l'occasione per ricordare che sul Sole a pagina 2 c'è un nuovo avvertimento dell'Unione Europea sul debito. Discesa troppo ma lenta. Ma non ascolta nessuno, figurati, non ascolta nessuno in Italia. Cioè, Sergio. Gli orrendi tecnici dell'Europa, i teutoni tedeschi. Ma quelli dunque... che... Il lavoro che Repubblica cercherà di fare è proprio questo, no? È proprio quello di rendere più chiaro più chiara la realtà dei fatti. Cioè, se voi guardate oggi quella quarta pagina sui precari, tanto per tornare a, diciamo, ai temi identitari, e beh, lì si vede con estrema chiarezza qual è il problema. Cioè, noi non possiamo affidare un paese sviluppato, un paese che aspira a essere una delle maggiori potenze industriali del pianeta, ma insomma con quale criterio può affidare il 40% dei posti della ricerca, che è un settore delicatissimo, importantissimo, ai precari, cioè persone che si devono vedere rinnovare il contratto magari di 6 mesi in 6 mesi o, se va bene, di anno in anno. Ecco, questo è un tema enorme, cioè un tema che se voi guardate quella tabellina che c'è lì, si vede istituto per istituto qual è la situazione. Ci sono istituti che hanno addirittura il 60% di precari, no? Quindi il lavoro che noi vogliamo ad fare, esempio? Ad esempio mi pare che ci sia il CNR addirittura che ha il 40% di se precari. Non sbaglio, di precari. Quindi stiamo parlando di quello che dovrebbe essere il cuore dello sviluppo di un paese che aspira appunto ad essere uno dei paesi più importanti. Questo è il lavoro che noi faremo nei prossimi mesi, cioè quello di entrare sempre più in profondità nella realtà dei fatti, ma semplificando molto, perché se guardate come è fatto il nuovo giornale, e attenzione, stiamo entrando in un campo ancora poco esplorato, perché è una formula veramente nuova questa, c'è per ogni sezione c'è una specie di guida che ti fa capire che cosa tu stai leggendo, che cosa leggerai in quelle pagine lì. C'è per esempio nella sezione del mondo, degli esteri, c'è questa grande pagina che noi abbiamo chiamato Fusi Orari, dove si vede il mappamondo e punto per punto questo, pagina 18-19 di oggi, di da dove vengono e che cosa sono, diciamo, c'è il punto, c'è il focus su degli elementi, su delle notizie importanti di quel luogo lì, per avere il panorama di quello che succede intorno a noi, che è una cosa oggettivamente che non è mai stata fatta, così come penso alla semplificazione della guida di ogni sezione. Ogni sezione ha la sua banda verticale, dove c'è, nel caso della politica per esempio, le domande e le risposte, perché noi siamo abituati sempre al chiacchiericcio, no? Bersani critica Correnzi, sì, vabbè, ma su che cosa? I temi, diciamo, di fondo, la concretezza, la realtà qual è? Beh, questo è il tema che noi ci siamo posti come, come dire, come canovaccio per affrontare una sfida di questo tipo, tenendo presente che poi la carta avrà una funzione sempre più, se vogliamo, opinionistica. Io non vorrei dire residuale, no? Perché non sarà così. L'Italia è un paese che sappiamo ancora una età media molto, molto elevata rispetto agli altri paesi europei, quindi i giornali di carta saranno ancora molto utilizzati, questo lo dico gli studi. E non lo dire così, sembra solo gli anziani li leggano. È vero, è inutile far finta di non vederlo, Luca. Così. Per esempio, noi abbiamo fatto una scelta, questo nuovo carattere che abbiamo chiamato Eugenio in omaggio al fondatore del giornale, che devo dire la verità, insomma un pochino se lo merita, perché ha cambiato la faccia alla stampa in questo paese. È leggibile agli anziani? No, è leggibile da ma me. Ma è più grande, è un carattere più grande, è un carattere più grande e più leggibile. Se voi lo confrontate con quello di Repubblica di soltanto sì, di ieri, è più grande. E l'abbiamo fatto proprio non soltanto perché gli anziani, ma anche perché per rendere il giornale più leggibile a tutti quanti. Allora, Palmiro da Cosenza, ci sei? Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, fermati solo un secondo che c'è la pubblicità. Fermati solo un attimo, pubblicità, e poi tocca a te. Mattino. Palmiro da Cosenza. Buongiorno, io seguo la vostra trasmissione, volevo sottoporre un problema per l'app social, quella dello scorso anno. Mia moglie ha avuto la certificazione dell'app social, ha inoltrato domanda, essendo una dipendente pubblico, del pubblico impiego, comparto scuola, non può presentare la domanda di dimissione della scuola perché non ci sono ancora i decreti attuativi, perché sia l'INPS che sia il provveditore dagli studi di Cosenza non sanno come fare le domande, quindi è tutto fermo. Sì. Nessuna domanda di app social a coloro che hanno il diritto, perché assiste una persona invalida, hanno dato questa possibilità di andarsene in pensione. Sì. Grazie, volevo sapere una vostra no no, ma il suo caso rientra, ci sono due tipologie sulle quali è una follia, l'app social ne hanno bocciate dell'app social. Quella è la prima, no, quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa. Mia moglie ha già ottenuto la certificazione. Stavo dicendo, abbia pazienza, Madonna Santa, vede, questa è un'altra cosa italiana, no? Ma non si riesce neanche 5 secondi. Sto dicendo, ci sono due tipologie di cose che non hanno funzionato secondo i sindacati della Pesoccia. La prima è quella che dice Luca Telese, che vuole sempre sfondare e dice no a chi non ha avuto riconoscimento dei requisiti. Non li avevano, Luca, abbi pazienza. No, hanno, non li hanno calcolato la seconda, come quella lavoro, veramente come grave, invece, la seconda, quella veramente, la seconda veramente grave è quella dei ritardi dei procedimenti attuativi per i quali chi invece ha riconosciuto il requisito non riesce a esercitarlo, che è il caso della signora, del nostro ascoltatore. Teniamoli distinti, perché nel primo caso non vengono riconosciuti i requisiti, nel secondo invece è un ritardo attuativo, e lì ammetto l'incazzatura più che giustificata. E volevo chiedere a Sergio e fargli risentire la frase di Eugenio Scalfari, che un po' ha fatto esplodere la rete, no? Sia a favore che il contro, cioè cambia. L'uomo che ha più, come dire, combattuto Silvio Berlusconi dice: voterei lui piuttosto che i 5 Stelle. Lei, se dovesse scegliere tra Di Maio e Berlusconi, affidare il paese a uno dei due, quale sceglierebbe? Sceglierei Berlusconi. Sergio, sei d'accordo? Ma insomma, diciamo, sono punti di vista, no? Io dico la verità. E no, esponiti, sei d'accordo col fondatore? Sì, Berlusconi l'abbiamo, allora, Berlusconi l'abbiamo visto. No, io non ti esporre, Di Maio non mi fido. Non mi fido affatto. Quindi anche tu, quindi anche tu preferiresti in un ballottaggio Berlusconi a Di Maio? Visto come ha governato. Ma eri uno dei più grandi detrattori. ma io naturalmente non ho condiviso quell'epoca storica, ma proprio qualche giorno fa ho fatto una pagina intera per raccontare che cos'è stata l'Italia di Berlusconi. Purtroppo i dati economici lo dicono, non è che lo dicono. Però nel ballottaggio, no? Se dovendo scegliere fra l'incudine e il martello, anche tu faresti la scelta, meglio una cosa nota. No, io ti dico la verità, non abbiamo già dato, ecco, da quel punto di vista lì. Quindi voteresti Di Maio? Il paese abbia bisogno ma non deve dirlo come... Sergio Rizzo come vota, ma perché deve incalzarlo? No, ma io non lo dico mai, non l'ho detto prima quando lavoravo al Corriere, appunto. Non lo dirò mai oggi che lavoro a Repubblica, appunto. Perché io sono, ho le mie idee e quelle idee lì sono, se le idee sono mie, sono molto d'accordo con questa impostazione. Però se tu mi fai questo mi poni davanti a questo dilemma, io non posso che diciamo esaminare i due cori del problema, no? Il primo è quello di Berlusconi, purtroppo l'abbiamo già visto. Io sinceramente affidare il paese, un paese che ha bisogno di superare, stiamo parlando delle pensioni mi sembra, no? Un paese che ha bisogno di superare questo tema che investe sempre troppo nei vecchi e mai nei giovani, affidarlo ad un uomo di 81 anni sinceramente. Però non mi pare, Sergio, che sia io ti faccio notare che la cosa di Scalfari, se la vedi, è in realtà l'espressione di una piega paradossale ai miei occhi, però che è molto estesa. Cioè la leader della formazione politico-sindacale che detta la linea tutte le mattine, Luca Telesi, cioè la Camus, sto sorridendo, e ottiene il consenso incondizionato di colleghi come Mario Giordano, di politici come Brunetta. Cioè la destra è appecoronata alla CGIL nello sfondare sulle pensioni, quindi ci sta che poi alla fine Scalfari, per così dire, ricambi il piacere e dica meglio Berlusconi. Sì, cioè, paradosso, sono infiniti. Camusso, cosa posso risponderti? Claudio da Roma. Buongiorno e tanto auguri a Repubblica, sono un lettore da 30 anni, quindi... Bene, no, perché molti ci criticano e dite ma state facendo una marchetta, ma perché parlate di Repubblica? Signori, questa rassegna è il tempo di tutti i giornali, quindi noi celebriamo e raccontiamo tutto quello che cambia i giornali. Poi, Quando un grande giornale fa un grande cambiamento, vale la pena, perché ha un effetto generale, tentare di capire come scampare alla morte che arriva dalla perdita di lettura. Molto utile. Claudio, allora, non leggo su internet, almeno quello. Comunque pensioni, Telese parla, dice qua ci sono delle vite dietro alle pensioni e quindi si preoccupa giustamente di chi appunto fa lavori defatiganti e quant'altro, ma qui lo Stato deve pensare all'equità, cioè chi farà i lavori defatiganti domani non avrà né la pensione dopo 40 anni, e allora è inutile che ci impietosiamo. Abbiamo allora, l'età di pensionabile più alta d'Europa. Ma non è vero, andiamo a 62 anni, Luca, pianta. L'età pensionabile più alta d'Europa. Queste sono le statistiche. Le pensioni attuali, in eccesso a ciò che si è versato, sono una sorta di generazionale. Che sia il datore di lavoro eventualmente a dare un contributo pensionistico più elevato per chi si sa che fa un lavoro. Sì, così il costo del lavoro sale ancora di più. Ma perché lo devo pagare io con la fiscalità generale? No, sottoscrivi questa cosa, non ci credo. Però io sottoscrivo la fondatezza di questo ragionamento. No, ma spinto dagli appiattiti sull'oggi del deficit, perché come dice la Camusso e come fai a dirlo anche tu, non lo so, tanto il deficit si pagherà tra 15 anni, ma roba da matti. Santa Susanna. Sergio, mamma, commenta, 30 secondi per chiudere. Io sono d'accordo con l'ettore di Repubblica, troppo facile. Ha ragione. Oscar, il tuo pensierino finale. Il mio pensierino finale è che oggi ho letto su un giornale romano che Milano ha perso e se lo merita, perché Roma sì che meriterebbe invece ben altro. Signori colleghi, capisco che dovete vendere anche voi, ma secondo me guardatevi intorno a Roma, e se non ce l'ha fatta Milano non credo che Roma avrebbe avuto migliori chance, e lo dico con la morte nel cuore. Bentornato Trota, ciao, ci vediamo domani cani e gatti, ciao Sergio Rizzo, ciao. Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Vi ha presentato 24 mattino.